Letture di Radio 24. Il 95enne regista Mario Monicelli, colpito da un cancro in fase terminale, si è suicidato gettandosi dal quinto piano del reparto di urologia dell'ospedale San Giovanni di Roma, dove era ricoverato. Appena si è diffusa la notizia, molti hanno cercato di leggerla secondo i propri convincimenti. Giuliano Ferrara, dalle colonne del Foglio, chiede a qualche giorno di distanza di fermare la macchina dell'accaparramento di una bandiera. Una volta ci sarebbe stato fin troppo pudore, anche solo nel parlare del suicidio di un uomo pubblico, ma oggi... L'altra sera, un vecchio cieco, e solo e malato, si è buttato dalla finestra di un ospedale romano. Triste notizia di cronaca. Succede. Non spesso, magari, ma succede. Questo vecchio che si è messo in volo era celebre per la sua arte di regista di commedie e per la sua personalità pubblica dal tratto amabilmente cinico e abrasivamente misantropico. Abbiamo scoperto allora che una circostanza malinconica, forse addirittura disperata, può trasformarsi nel discorso pubblico italiano in un orgoglioso e tetro manifesto ideologico a favore della libertà, dell'autodeterminazione umana e del loro più recente compagno in Occidente, il nulla. Monicelli, come chiunque, aveva la facoltà di fare quel che ha fatto senza essere poco cristianamente e liberalmente giudicato, tantomeno biasimato o condannato. Dico la facoltà e non il diritto, perché diritto di buttarsi dalla finestra è espressione in sé grottesca, sebbene la sua parafrasi sia risuonata in confusi discorsetti sull'eutanasia pronunciati alla Camera. Ma la facoltà sì, quella ovviamente ce l'aveva. Il Presidente della Repubblica e l'establishment culturale e civile italiano non hanno invece il diritto di imporci un'insincera, mistificatrice, ideologica apologia della disperazione, della solitudine, della misantropia e del suicidio. Ognuno può in coscienza valutare il gesto di Monicelli alla luce di convinzioni diverse, tutte libere, convinzioni religiose di tradizione cristiana, filosofie materialiste o ateiste, ma la valutazione dovrebbe essere discreta, attenta, governata dalla sensibilità e non dall'arroganza culturale, che è una delle peggiori varianti dell'aggressività umana. Ma come si vede, siamo di fronte a ben altro. Il giornalista collettivo e l'uomo di spettacolo hanno deciso, in men che non si dica, appena la salma è stata ritrovata e coperta da un lenzuolo bianco nella pioggia, che il volo di Monicelli è lo sberleffo del laico, un atto di anticonformismo, l'espressione di una volontà incoercibile, superba, nobilitante per l'intera comunità. Ma questa tiritera nichilista di serie B, caratterizzata da spontaneità e sciocco automatismo, indizio di un modo coatto, indottrinato di guardare ai fatti della vita e della morte, si sono aggiunte le dichiarazioni autorevoli di leader politici o quella, caratterizzata da una sfumatura di prudenza, ma in sé non diversa dalle altre, del capo dello Stato, che ha combinato nella sua riflessione pubblica la forte personalità di un grand'uomo con la necessità di rispettare questo suo ultimo scatto di volontà. Una volta, il gesto suicida di un uomo celebre sarebbe stato circondato nella parola pubblica da un eccesso di pudore, da una riservatezza negazionista radicata nel senso del peccato e nella concezione cattolica della vita. E questo è qualcosa che probabilmente non tornerà mai più. Ma la cattiva secolarizzazione rovescia la frittata e impudicamente esibisce davanti a vecchi e malati che magari vogliono curarsi e sperare, davanti a cittadini che si aspettano autorità e leader intellettuali capaci di pietas e di misura nel giudizio, un manifesto di gioiosa lode a chi, in nome dei veri significati della vita, si è appena tolto di mezzo con tragica brutalità. Dicono che quel vecchio uomo di talento che si è buttato dalla finestra, lui sì, aveva la schiena dritta. Era un partigiano dell'esistenza degna di essere vissuta. Nemmeno il regista Denis Arcand, con le sue demoniache ma tenere invasioni barbariche, la storia di un'eutanasia post-sessantottina vissuta in gruppo, aveva esibito una così stucchevole retorica di Stato sulla morte come bandiera. È la misura irriflessa di quanto siamo diventati ipocriti e bugiardi. La tiritera nichilista è il titolo dell'articolo a firma di Giuliano Ferrara che è pubblicato su Il Foglio di giovedì 2 dicembre. Se il PDL e il suo leader vivono momenti difficili, non si può dire che il PD goda di buona salute, almeno guardando le sfide per le primarie che il centro-sinistra affronterà di qui a un mese a Torino, Bologna e Napoli. La fotografia che ne esce è quella di un partito preso nella morsa delle divisioni interne e della debolezza della leadership, e Nichi Vendola cerca di sfruttare la situazione per guadagnare posizioni. Chiamate le faide. A Napoli le primarie sono questo. Nella città dove si allunga l'ombra di Antonio Bassolino, i candidati del PD sono addirittura tre. Un numero esagerato anche per chi non sapesse che dietro la moltiplicazione dei candidati c'è una spaccatura nel mondo dei bassoliniani e una terza candidatura che rischia di rimanere vittima di quella guerriglia. Intanto Nichi Vendola gode e prepara la sua sorpresa, libero Mancuso. A Bologna invece le primarie sono un testa a testa da far paura. Perché proprio lì, nella città dove i democratici sono in un rapido calo, dal 50% del 2008 al 41% delle regionali, al 37,5% dei sondaggi di oggi, l'unico candidato del PD potrebbe finire al tappeto sconfitto dall'assalto di Vendola e del suo 12,5% delle ultime rilevazioni. E poi c'è Torino, dove le primarie, se ci saranno, sono una scommessa vitale. Lì c'è l'ultimo fortino PD al nord e una sconfitta diventerebbe il simbolo di una debacle finale al di là del Po. E dunque scenderà in campo un big, un nome di prestigio come Piero Fassino, una personalità che chiama in campo tutto il PD, non solo quello torinese di Chiamparino. E anche sotto la Mole, Nichi non cerca il suo candidato nella politica, ma nel mondo dei simboli e della battaglia sociale. Giorgio Airaudo, della FIOM. Insomma, alla fine del giro tra le città, dove tra poco più di un mese si disputeranno le primarie, la fotografia è quella di un PD che oscilla tra rese dei conti interne e debolezza, mentre i vendoliani preparano la carica sul calco del modello Pisapia. La loro strategia è quella di replicare quell'effetto misto tra liste civiche, mondi della solidarietà e legalità per far cadere uno a uno i candidati PD, approfittando del caos locale e della paura dei leader romani che dopo il flop milanese stanno un passo indietro e lasciano campo libero a Nichi e alla sua strategia di lanciare l'OPA al PD dal basso. Intanto a Napoli è guerriglia, perché la candidatura alle primarie decisa all'ultimo minuto da Andrea Cozzolino, europarlamentare, record di preferenze in provincia, è diventata la prova della spaccatura dei bassoliniani che già avevano messo in campo Nicola Oddati. Contro i due gareggia Umberto Ranieri, molto vicino al capo dello Stato, appoggiato dai Dalemiani e da Enrico Letta. Ma intanto i vendoliani cercano di convincere l'ex magistrato di frontiera Libero Mancuso, già assessore alla legalità della giunta di Sergio Cofferati a Bologna. A Bologna Vendola ha già scelto. È Amelia Frascaroli, cattolica della Caritas, cinquantenne, diventata nota in città per la sua versione del Tea Party, un tè offerto a chi ne ha voglia nel tinello di casa sua. Nichi è venuto qui a sostenerla, mentre il PD, sul suo Virginio Merola, ha scelto una neutralità attiva. Il nuovo refrain nel partito è che le regole del gioco impongono un passo indietro e gare libere, ma il dilemma attiene più alla paura di perdere che alle regole. Avete ascoltato l'articolo di Lina Palmerini dal titolo Nel caos primarie Vendola prepara l'OPA, pubblicato da Il Sole 24 Ore di giovedì 2 dicembre. Martedì 30 novembre alla Camera si vota un emendamento che prevede di dirottare 20 milioni di euro previsti per il rimborso elettorale ai partiti sulla ricerca universitaria. Sembra cosa fatta e il PD annuncia voto favorevole, ma a un certo punto Ugo Sposetti, ex tesoriere del partito di Pierluigi Bersani, dice chiaro e tondo in aula: «È una norma indecente, bisogna votare contro». E l'emendamento non passa. L'ennesimo furto della casta? O forse è la proposta che era demagogica e Sposetti non ha avuto tutti i torti? È fin troppo facile fare demagogia sul voto della Camera che, complice una spaccatura nel gruppo del PD, ha affossato un emendamento che avrebbe dirottato 20 milioni di euro dai rimborsi elettorali ai partiti al fondo per i ricercatori universitari. Altrettanto facile è additare alla pubblica riprovazione Ugo Sposetti, ex tesoriere dei DS, che con un intervento in aula ha orientato verso il no il voto e armato così la penna dei paladini anticasta. I quali, invece di scandalizzarsi del fatto che sia saltata l'elemosina una tantum ai ricercatori, potrebbero spendersi per una battaglia meno episodica. l'abolizione dell'accumulabilità dei rimborsi ai partiti. Il meccanismo dei rimborsi elettorali, che poi rimborsi non sono, dato che ai partiti non viene risarcito quanto spendono in colla e manifesti, ma cifre ben più sostanziose legate ai voti ricevuti, prevede che tutte le forze che hanno superato il quorum dell'1% abbiano diritto a spartirsi la torta del denaro pubblico. Con la tornata politica del 2008, solo per restare alle forze principali, il PDL si è garantito tra Camera e Senato un finanziamento complessivo di più di 200 milioni di euro. Il PD si è fermato a quota 180 circa, la Lega oltre 40. Queste somme vengono erogate con rate annuali, ma, e qui sta il vero scandalo, una legge del 2006 garantisce alle forze politiche di continuare a percepire i rimborsi anche se la legislatura si interrompe prima della scadenza naturale. Ricordate il Parlamento del 2006? Quello con Prodi appeso ai voti del Senato? Alcuni dei partiti presenti in quella legislatura non esistono nemmeno più. Eppure hanno continuato a prendere i soldi e li prenderanno ancora fino all'anno prossimo, quando quel Parlamento sarebbe morto di morte naturale. Questo significa che se si tornasse a votare nel marzo prossimo, i rimborsi delle elezioni del 2011 si cumulerebbero a quelli degli anni precedenti e il prossimo diventerebbe l'anno della cuccagna. In un colpo solo, i partiti incasserebbero l'ultima rata della tornata 2006, la terza rata della tornata 2008 e la prima delle nuove elezioni. Questo accumulo costringerebbe Giulio Tremonti a trovare altre risorse per finanziare il nuovo giro di urne. Servirebbero altri 500 milioni circa per 5 anni. Una cifra enorme se si pensa alle polemiche per i 300 milioni destinati all'emergenza alluvione in Veneto. I partiti non sono simpatici quasi a nessuno, spesso nemmeno a chi li vota. Ma una democrazia che funzioni senza i partiti non è stata ancora inventata. Prendono troppi soldi? Vero. Stupisce che quasi tutti considerino giustamente essenziale cambiare la legge elettorale prima di tornare al voto, ma nessuno abbia alzato la mano per segnalare che sarebbe sacrosanto inserire in un angolino dell'agenda delle cose da fare prima del voto l'approvazione di una legge che cancelli la vergogna dell'accumulabilità dei rimborsi. Se si deve dare un segnale, che lo si dia forte e giusto, anziché cercando di lavarsi la coscienza coi ricercatori universitari per mezzo di una populistica bottarella alla casta. Avete ascoltato l'articolo di Stefano Cappellini, Cari partiti, tenetevi i soldi ma mollate il cumulo, pubblicato su Il Riformista di giovedì 2 dicembre.